settori più belli sono stati quelli di rifunzionalizzazione, cioè quindi edifici nati per una funzione che poi sono stati in grado di trasformarsi per altro, no? È un edificio che rinasce, come le persone in rinascita, no? Cioè sono straordinari, no? E questo è il nostro contenitore della memoria collettivo, perché questo è l'edificio, la casa dei cittadini, l'edificio che è stato recuperato e in cui ogni cittadino ha la propria memoria personale di quando era bambino, perché tutti abbiamo fatto le scuole elementari qui. E quindi diventa anche il luogo della memoria collettiva di un evento brutto da cui però ci si è rialzati. Quindi questo è il senso un po' anche del perché abbiamo fatto tante cose qua dentro. Le vecchie scuole elementari di Via Dante sono state ristrutturate e adesso c'è dentro il municipio. Quindi è stato adeguato tutti i locali per gli usi degli uffici e così via, quindi è stato, diciamo, sono vecchissime anche loro, quindi è stato fatto una ristrutturazione conservativa e di sicurezza. Mentre le scuole medie sono andate dentro gli ambulatori di alcuni medici e si pensa di fare in futuro la casa della salute, portando i CUP, portando altri servizi che vanno a beneficio della cittadinanza. Quando è successata la prima scossa, quella delle 9, io ero in cortile, in casa mia, e mi ricordo sempre, a parte sì, boato, mi ricordo sempre di aver visto nel prato le onde e la mia cagnola che avevo di fianco che non riusciva a stare in piedi, barcollava. Credo di aver detto, mi dice un amico con cui ho parlato al telefono, io non ricordo, mi dice che io verso l'una, insomma lui mi telefonò, non abita qui, mi disse ma come va? E in quel momento io gli dissi guarda c'è una scossa di nuovo, io non so se saremo vivi stasera perché se continua così non so cosa succede. Poi ovviamente c'è anche la parte brutta, c'è la disperazione delle persone, c'è la paura. Noi tante volte abbiamo delle paure psicologiche nella nostra vita normale, no? Che sono paure nostre. In quel caso la paura era qualcosa di molto concreto, era qualcosa che ti poteva fare morire fisicamente, no? Ed è una paura spessa, non so come dire, una paura concreta, una paura materiale, no? Che si può concretizzare in qualcosa di... E quindi molto diverso da quello che è dalla paura che noi viviamo, quindi proprio un senso diverso. Io tuttora, quando sento una... quando suonano gli allarmi, c'è un suono di un allarme in particolare che mi manda in tilt. Perché poi le demolizioni sono durate per dei mesi, mesi e mesi. E funzionavano così, no? Cioè la penna sbriciolava gli edifici e poi quando trovavano qualcosa fermavano e facevano venire le persone che vivevano lì, che in mezzo alle macerie recuperavano un pezzettino della loro vita di prima. Una maglia, un album di foto, cose piccole, un paio di jeans. E io questa cosa qua, cioè mi è rimasta proprio sotto la pelle. E lo diciamo tutti, ce lo continuiamo a dire, la casa in quel momento, le case in quel momento non erano il luogo amico e sicuro dove poter stare, erano il nemico, tu dovevi stare lontano se volevi sentirti sicuro, quindi dovevi stare in un posto che non fosse la tua casa, quella che dove ti sei sempre trovato, insomma, no? Dove avevi... dove avevi il senso di sicurezza, insomma, ecco.